recluso tra pareti, dalle mura trasparenti, qua nessuno concepisce manco parte dei miei intenti. Semplice, mettermi nel novero degli incompresi, molto peggio voi, repliche di volti tesi. Ho le stimmate del martire, non le corone candide dei conformisti assurdi al grado di messia. Ho l'aspetto troppo fragile, non colgo l'occasione di innescare opportunismo senza più poesia. L'energia che vi diffondo appare alternativa, vi disturba perché attira e sembra più nociva. Passa per la rotativa, l'indole lasciva, ma che scriva questa feccia sterile, zero inventiva. La meccanica si fonde con l'ispirazione, febbre atavica, c'è sempre un dubbio in ogni soluzione, blatera quel coro miscredente perché il genio non sa d'esserlo, aleggia trasandato nella sua visione. Mani rapaci rubano progetti, io bollato come eccentrico, ma che t'aspetti? E c'è homo, non c'è storia altrimenti, eccellenze sempre sotto il cumulo di troppi netti. Nessuno vuol tentare di capire, scindere l'essenza, a prescindere dal tarlo della convenienza. Manca il fuoco che sconvolge l'esistenza, 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Pensa un poco a Tesla. 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Immedesima il tuo ego in un contesto innovativo, pensa un poco a Tesla, pensa un poco a Tesla. Fluido verde di speranza che si mischia a queste barre, bosco tenue che si innalza e si staglia sulla calle. Il genio che si estende nel teatro color viola dice che essere estroversi non va più di moda. Quando esce per la strada pugni duri come mitri, messaggero del divino. Per l'arte Gibri guarda un fuoco che si innalza, il fumo da lontano. Sa che anche stanotte avrà un compagno nella mano, nel pugno una fiamma, sul volto un sorriso. Poesia arsonistica, il fuoco va condiviso. Nessuno vuol tentare di capire, scindere l'essenza, a prescindere dal tarlo della convenienza. Manca il fuoco che sconvolge l'esistenza, 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Pensa un poco a Tesla. 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Immedesima il tuo ego in un contesto innovativo, pensa un poco a Tesla, pensa un poco a Tesla. Ripenso a geni senza regimi, corde spezzate in un'orchestra di violini, tendenti a distaccarsi dalle vostre maschere, espandere elementi oltre quei confini. Autoimposti e certi mostri vi riempono la testa con pensieri non vostri, visi loschi e sorridenti come fossero jolly. Siete tutti quanti delle pecore dolly. È comune tra gli umani non avere umanità, che visti tempi è meglio prenderle che darle. Si combatte per un giorno di notorietà, per poi tornare nell'abisso assieme a Darren. Il discorso non è tanto Tesla versus Edison, qui si evince che chi vince non ha merito, non ha credito. Chi manifesta pensieri leali, non è lecito tentare di aprire le ali. Il rischio di finire come Icaro è gigante, impedisce a pelle giovane di fare la muta. Sono passati secoli, ciò nonostante, la soluzione resta freddarsi con la cicuta. Nessuno vuol tentare di capire, scindere l'essenza, a prescindere dal tarlo della convenienza. Manca il fuoco che sconvolge l'esistenza, 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Pensa un poco a Tesla. 100.000 passi avanti, pensa un poco a Tesla. Immedesima il tuo ego in un contesto innovativo, pensa un poco a Tesla, pensa un poco a Tesla.